si mette denaro nella via. Tiro si mette denaro nella via. Dalle panchine sedili di pelle del Benz, Mercedes nero si muove di notte, c'è Vito con me. Rumori nelle chiamate, sgamate, parliamo al rovescio. Passiamo al posto di blocco sfrecciando su 150 cavalli compressor. Ah, e no fra, non voglio finire su una camionetta. Ma è poco il tempo che resta, mi scoppia la testa, registro sta roba di fretta. Faccia da clocker, nomi insegnati sul block notice. Giro nel blocco mezzetto nascosto dentro al sacchetto di Food Locker. E la fresca in tasca, billionaire fra controlla la piazza. Se il rap fosse un'auto io sarei un Mercedes. Se il rap fosse un'auto saresti una panda. Cerchi 18. Passiamo in mezzo ai palazzi, la gente si affaccia di sotto. La gente si affaccia di sotto. C'era quel Mercedes ero nella via. Mi dicevo un giorno ce la farò anch'io. E non è grazie a Dio, no, chiedilo a Vito. Prego il Cristo di Rio di restare pulito. Giro sul Mercedes nero nella via. Giro sul Mercedes nero nella via. Giro sul Mercedes nero nella via. Squad nella via, nella via, nella via. Mercedes nero 24 ore. Ho una maglia rossa la flore. Una maglia la mi costa parecchio. Fra la mia troia mi porta rispetto. Te do a casa vi ci mando con le rime nuove. La TV non la guardo, non ho il decoder. Ti sei mingherlino, mangi minestrone. Mi li vedi in giro, cambi direzione. Va a ripararti da tafferugli la sera. Flow francese, verle, cede, smernera. Strafogati e pasti, siamo ben serviti. Arriviamo al party, siamo ben vestiti. Baci, baci, mua, mua, fanculo. Capizzari, la scena in auto. Passo dai ragazzi e Formula 1. Quelli dei palazzi a forma di cubo. Noi crash test non lo facciamo. Se c'è Vito su un'auto, la lancetta del contagiri. Non conta i chili che abbia portato. C'era quel Mercedes ero nella via. Mi dicevo un giorno ce la farò anch'io. E non è grazie a Dio, no. Chiedilo a Vito, prego il Cristo di Rio di restare pulito. Giro sul Mercedes nero nella via. Giro sul Mercedes nero nella via. Giro sul Mercedes nero nella via. Nella via, nella via, nella via. La gente si affaccia di sotto se passo sopra il mio Mercedes. Ma niente che spacco biscotto, le lancio su 147. Bastardo che insegue, non gusto mai come l'ardo alle cene. Bombarda i live, non puoi farmi vedere. Tanto brama, tu puoi farmi le sighe. Sto con banda neri unito tra capsule nere. Fra macchine vero, non chiacchiere baby. Le chiacchiere conta le chi se le beve. Chi si beve altro, se sto cadendo dal lato. Forse è perché ci abito anche il bimbo magico cresce. Chi dal limbo tragico ne esce. Come un immortali ne pagano spese. Negro fai che c'ho l'assetto. Per sta roba vedrei giusto giusto fra un annetto. Per la droga perso molto più del tuo rispetto. La mia gloriamente è per mostrare su di letto i 190, ma metti che qua si campa. I miei proiettili sulla gamba. Insegno, mettili o fa condanna. Insegno, mettiti a fare danza. Giro sul Mercedes nero nella via.